Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Venne il giorno, a quanto pare, in cui Berlusconi decise di vendere il Milan dopo 30 anni e 28 trofei. Così Silvio Berlusconi questa mattina all'uscita dall'ospedale dove è stato a lungo ricoverato. Ho rinunciato a qualunque pretesa di prezzo, ho accettato quello che mi è stato proposto, che non tiene nemmeno conto del valore del brand, che pure è un valore importante, con 342 milioni di rossoneri simpatizzanti in giro per il mondo, e ho però preteso che ci sia l'impegno per i nuovi acquirenti, che sono un gruppo di importanti società cinesi anche a partecipazione statale, di versare nel Milan almeno 400 milioni di euro nei prossimi due anni. Queste le parole di Berlusconi. Dunque ho venduto, non sono stato a tirare il prezzo, importante che mettano 400 milioni di euro, si diceva nei giorni scorsi nei prossimi tre anni, Berlusconi dice in due anni. Si dice anche che il 12 di questo mese, quindi tra pochissimi giorni, ci sarà la firma del preliminare. Saluto Pierluigi Pardo, ovviamente, mio compagno di banco. Ciao. Ciao. E c'è Marco Beninazio che adesso ci spiega tutto. Da solo 24 ore. Buon pomeriggio a tutti. Fatta? Beh, fatta più che la missione, insomma, dello stesso patrono rosso-nero di essersi deciso di aver sciolto la riserva, credo che possa essere poco, se non l'inchiostro sul contratto. Si parla dell'inizio della prossima settimana, insomma, in realtà non è ancora stata fissata una data, ma insomma, si rimeranno gli ultimi aspetti, insomma, del contratto. Ed è un'operazione che a questo gruppo cinese, ecco, uno degli aspetti fondamentali dovrà essere poi la disclosure di questi acquirenti, che dovrà essere fatta in coincidenza, immagino, con il preliminare, costerà appunto a questo gruppo di acquirenti più di un miliardo l'operazione, perché Milan avrà una valutazione di circa 550 milioni, a cui si aggiungono 200 milioni di debiti che saranno a carico evidentemente del consorzio cinese, e c'è poi questo impegno citato da Berlusconi, che era uno degli aspetti più complicati della trattativa, di sostenere economicamente il Milan. Dovrebbe esserci appena fatto il closing, e quindi dopo l'estate, a settembre, un aumento di capitale da 100 milioni e poi successivamente ulteriori operazioni, quindi soldi, che questi ulteriori 400 milioni di cui ha parlato Silvio Berlusconi, che non andranno alla Fininvest, ma andranno nelle casse del Milan. La Fininvest poi cederà nell'arco di un paio d'anni l'ulteriore 20%, quindi ripeto, un'operazione che complessivamente per il consorzio comporta un impegno finanziario di 1,1 miliardi, stando a queste cifre, con firma del contratto preliminare all'inizio della prossima settimana, closing vero e proprio a settembre, insomma, dopo l'estate o comunque insomma nel mese di settembre. Questo è il quadro, insomma, su cui possiamo legittimamente fare affidamento, insomma. Abbiamo avuto sorprese, ma insomma, Berlusconi sembra davvero, c'erano tali avvisaggi, insomma, no, stavolta sembra che le sorprese siano finite. Certo, Pardo fa un certo effetto in una afosa mattina dei primi di luglio di fronte all'ospedale, Silvio Berlusconi che dice: vabbè, il Milan è andato, ho deciso così. Si dice che l'abbia deciso già da qualche giorno, e abbia dato il suo consenso, il suo benestare da qualche giorno. Si chiude un'epoca in un modo abbastanza strano, insomma. Sì, abbastanza strano, e però devo dire molto elegante nei confronti dei tifosi. Ultimo regalo, dici? Insomma, se non ho capito male, se non ci saranno sorprese, insomma, è uno dei primi casi nei quali un venditore dice all'acquirente: sì, te lo vendo, però poi devi investire su questa roba qua, no? Cioè, se tu vendi una casa, non è che poi puoi pretendere che ci siano gli investimenti sull'arredamento dopo che l'hai vista. Certo. Evidentemente, però, insomma, l'eccezionalità della situazione, il legame d'amore del presidente con Milan era talmente forte che ha voluto richiedere questi aspetti. Per cui, insomma, mi interessano un po' le tecnicali di Berlinazzo, no? Questa roba, come si va bene, io ti vendo una casa e ti dico: però adesso devi investire almeno 50.000 euro per mettere a posto il parquet. Come facciamo a trovare un accordo? Come posso essere sicuro? Come può essere sicuro Berlusconi che garanzie può avere del fatto che questi investimenti verranno fatti dai cinesi nei prossimi 2 anni? L'aumento di capitale pure pure, ma il resto? Beh, quello che si dovrà definire, che scopriremo man mano che ci sarà chiarezza su tutto l'apparato contrattuale, è anche per questo che si è discusso a lungo, così come si è discusso a lungo su chi dovrà mettere i soldi per la campagna acquisti, perché tecnicamente fino al closing non arriveranno i soldi per Fininvest, e Fininvest sarà proprietaria al 99,9% del Milan, quindi per tutta la campagna acquisti formalmente proprietaria del Milan e anche sostanzialmente di fatto è la Fininvest, per cui bisognerà capire, e credo che sia uno degli aspetti poi interessanti, chi metterà i soldi, perché dal punto di vista decisionale è già stato sperimentato con Montella una sorta di cogestione, no? Tra diciamo l'advisor del consorzio cinese, Galatioto, Gangikov e Galliani, che ha rappresentato il Milan. Però evidentemente poi l'aspetto più importante è chi mette i soldi, sì, e formalmente deve metterceli la Fininvest. Quindi siccome è accaduto, vi ricorderete anche l'anno scorso, che la Fininvest ha fatto un grande mercato in termini finanziari, più di 100 milioni la spesa, nella prospettiva dell'accordo con Mr. B, e dopodiché le cose sono andate come sono andate, e di conseguenza la Fininvest tra 2015 e 2016 è l'anno, diciamo, in cui ha speso di più per il Milan, paradossalmente, oltre 150 milioni, per cui immagino che ci siano da parte della controllante del Milan la necessità di avere le adeguate garanzie sul fatto poi di essere, tra virgolette, rimborsati o ristornati sulle eventuali spese qualora dovessero andare male le cose dopo la firma del preliminare. Grazie Marco, sentiamo naturalmente nei prossimi giorni, a presto, prestissimo, perché grandi cose stanno succedendo, il calcio di Milano in mano ai cinesi. Allora, adesso ci fermiamo per il traffico, poi andiamo agli europei, poi sull'argomento milanesi torneremo più tardi. Tutti convocati. Tutti convocati. Qualcuno potrebbe pensare che questa sia l'accoglienza che l'Islanda intera, tutta presente, ha riservato ai suoi giocatori reduci dagli europei. In realtà non è così. In realtà questo era il compleanno di Giancarlo Marocchi, del grandissimo Giancarlo Marocchi, cui con un giorno di ritardo io e Pardo facciamo gli auguri. Giusto, Pier? Assolutamente, assolutamente. Era... E siamo pronti anche ad andare a Reykjavik per festeggiare tutti insieme. grazie. Grande, bella idea. Mica solo tu, Giancarlo, anche lì a Sky c'è. L'altro giorno ho parlato con Paolo Condò, ha una mezza idea di andare a Reykjavik per le vacanze. Non è mica che è venuta questa idea anche a te. Facciamo un gruppo vacanze Piemonte. Sì, per una volta si fa, perché si fa tutto per una volta, è bello che ci siano anche queste storie a completare l'europeo. E quindi loro ci hanno attratto tutti, dai. Sì. E poi hanno giocato anche bene. Hanno giocato anche bene, hanno sorpreso un sacco di squadre. Sì, non è che ci sia un grandissimo campionato islandese, così no. Come non c'è un grandissimo campionato gallese, eppure guarda dove sono arrivati. Quanto all'azzurro, nonostante gli ampi consensi fanno rumore oggi i critici, guarda, ho ricevuto 30 secondi fa una mail che mi diceva ah sì, va bene, però alla fine il risultato sportivo è che a casa ai quarti di finale, quindi non c'è molto da festeggiare. Sui social stanno massacrando i due poveri Zazza e Pellè, tanto che la fidanzata di Pellè ha chiesto pietà, mi sembra, dalle ultime notizie. Il risultato azzurro è questo. Noi continuiamo ad essere, insomma, orgogliosi di quello che hanno fatto, e non è normale quando vai a casa ai quarti. No, non è normale perché si va a casa in un modo o in un altro. Perché fossimo andati a casa contro una squadretta, insomma, ci sarebbe stato da ridire. Invece noi abbiamo fatto il nostro passando agevolmente. E quello era normale, che dicessero nelle dichiarazioni gli azzurri, nessuno pensava che passasse il turno. Invece no, passato il turno facilmente, lì tutto normale. L'ottavo anche sarebbe stato normale, ma cosa succede? Succede che la Spagna fa male e quindi l'abbinano a noi. E allora ci vuole una super partita, quindi è stato un super ottavo, giocato alla perfezione e poi trovi la Germania. La Germania a quel punto, che ne so, tutti noi ci aspettavamo di dominare anche la Germania, adesso poi si passa da un eccesso all'altro. E con la Germania abbiamo fatto quello che si poteva, perché loro fisicamente, tecnicamente, veramente li ho visti dal vivo, vi assicuro, per quelli che mi possono credere, non so quanti sono, era proprio impossibile poterli superare. Quindi decidere a un certo punto, dopo il regalo di Boateng, di andare ai rigori è stato perfetto, perché poi il destino ai rigori voleva far passare noi. Sì, abbiamo avuto i due ragazzi, sì. Se vuoi dopo. Veniamo ai due ragazzi, prima di venire ai due ragazzi, stando a quello che dicevi e condivido anche con Pardo, a casa sua è stato criticato moltissimo, ma lui è stato geniale nel preparare questa partita, geniale ed enormemente umile. Questo è quello che penso. Perché insomma? No, perché secondo me se Germania-Italia è stata una partita alla pari, e comunque sia tutti pensiamo che la Germania sia un po' più forte dell'Italia, vuol dire che o Conte è stato un genio o Löw non è stato poi così geniale, siccome è stata gara pari nei 120 minuti, come occasioni, come possesso palla no, come sensazione sì. di completezza tecnica sicuramente no, sicuramente la Germania si vede che è più forte, ma poi se vediamo la partita, se vediamo le occasioni, siamo lì, cioè noi abbiamo avuto bisogno di un loro errore per pareggiare dopo che loro avevano avuto bisogno del nostro errore per passare in vantaggio, quindi io non penso che sia stato geniale, e devo dire che quello che dice il professor Marocchi è il nodo, secondo me. Nel senso che mi viene in mente un po' il discorso che facevamo dopo, ad esempio, quel discorso di Spalletti dopo l'eliminazione di Real Madrid-Roma, no? Il punto di vista degli allenatori deve essere sempre comunque portato a creare una cultura della vittoria. Quindi è giusto che Conte, nel suo discorso alla squadra, dopo averli ringraziati, possa sottolineare le cose che non sono andate, gli errori, ed è giusto, perché il perfezionismo delle squadre che devono e degli allenatori e dei giocatori che devono avere una mentalità vincente, però noi che siamo qua fuori dobbiamo sottolineare che esiste un modo di vincere e un modo di perdere che può essere molto diverso, cioè la famosa sconfitta a testa alta è diversa dalla sconfitta senza gloria. Sì, nel rugby siamo andati avanti per anni, tanto che ci siamo alla fine scocciati delle onorevoli sconfitte, nel calcio non succede così frequentemente. Ha ragione Pardo su Löw, Giancarlo? Sì, ha ragione, non abbiamo la controprova, quindi io e Pardo ci diamo ragione a vicenda e ci fermiamo lì, perché non sappiamo se la Germania vera 4-2-3-1 avrebbe potuto asfaltarci, questo lo teniamo come dubbio. Löw ha detto io mi metto come loro, vinco più duelli uno contro uno e vinco. Poi non stava vincendo, ecco, però non lo sapremo mai, ma io lo penso come fatto. Vediamo... è stato come 4-2-3-1. Secondo me loro hanno avuto un eccesso di paura. Sì. E io penso che il loro cambio tattico sia figlio dell'immagine che Conte ha saputo costruire, esatto. Questa nazionale. E noi siamo arrivati dopo una grande impresa con la Spagna, siamo arrivati un po' per tradizione, ma direi molto di più per sostanza, come la classica squadra che non vorresti mai incontrare, e quindi i tedeschi si sono snaturati, hanno fatto una partita normale, e questa partita normale per poco non la diciamo noi. Veniamo ai due ragazzi, Giancarlo. Sì. Allora, per me tutti e nove quelli che sono andati sul dischetto sono degli eroi, e a maggior ragione la maggior parte di loro che veniva dalla panchina del campionato italiano, se andiamo ancora un po' indietro, chi veniva dalla Serie B, molti dal Cesena, insomma hanno dovuto girovagare per l'Italia, per lei anche passando dall'estero, per arrivare in nazionale, battersi la Spagna, fare una grande partita, però poi si va dal dischetto e lì sei solo. Sì. Lì sei solo e succede che uno fa una rincorsa ridicola, però comunque Zaza qualche volta l'ha fatta. Pelé che tenta in qualche modo di condizionare Neuer, che è il più incondizionabile del mondo e il più bravo in assoluto, perché già di suo occupa metà porta, quindi io non li condannerei. Cioè ci si può divertire, anche addirittura Bolle, grande ballerino, si è divertito con Zaza e vale tutto, però lapidarli, crocifiggerli, assolutamente no. Sono d'accordo. Io credo che Bolle, che sicuramente ha fatto una battuta scherzosa, certo, abbia maneggiato con poca cura, perché non è abituato a giocare con il calcio, azioni, le interazioni, spesso anche pericolose, che visto nel mondo del calcio abbia un po' esagerato, ma non perché ci fosse assolutamente malizia, lui ha fatto una battuta innocente e anche simpatica, però sappiamo bene che in queste ore, per quel poco che compra i social network, insomma, questi ragazzi hanno passato delle ore abbastanza complicate, e penso che chi li ha insultati, l'esatto contrario, cioè i leoni da tastiera, che poi magari incontrandoli a Fiumicino gli chiederebbero un selfie, perché poi spesso è così, siano l'esatto contrario di quelli che invece vanno sul dischetto. Poi vai sul dischetto anche perché ci devi andare, per carità. Non c'erano molte scelte. Soprattutto gli ultimi, perché stavano finendo. Il povero Darmian probabilmente non ci voleva andare sul dischetto. Però ecco, sono proprio i due atteggiamenti contrari. Da un lato sei chiamato alla grande responsabilità di aprire il mondo, dall'altro invece hai la possibilità così di insultare, di denigrare, protetto dall'anonimato. Sono proprio due cose diverse. Sicuro. Da un lato c'hai gli occhi del mondo addosso e se sbagli paghi, e dall'altro invece hai la comoda posizione di chi può dire per lei sei uno sfigato, Zabbo sei un cretino e bla bla bla. E poi, per carità, hanno tirati malissimo, cioè, questo non è che c'è da discutere, però sono errori tecnici, la vita di noi tutti è fatta di errori. Io non penso che nessuno di quelli che Ma abbiamo parlato anche ieri con Aldo Serena e ci diceva: tu non puoi capire cosa passa in quel momento nella testa del rigorista. Ma Pellè avrebbe pensato di fare un gesto così, gli è venuto. Zaza, quei rigori ogni tanto li tira così. Che vuoi fare? Erano gli ultimi rigoristi rimasti e non c'era moltissimo altro in cascina se non Buffon. Per finire, Giancarlo Marocchi, adesso una finale anticipata e la più fortunata squadra del torneo, cioè il Portogallo, che incontra il Galles senza uno dei due migliori, cioè Ramsey. Sì, però se favola deve essere, se europeo deve essere con finale a sorpresa, che vinca Bale, ecco, visto che magari... non so, Francia e Germania arrivano al 120esimo distrutti eccetera eccetera, poi Bale che possa prendere anche il Portogallo lì, non mi stupirei nemmeno più di tanto, anche se è giusto considerare la semifinale Francia-Germania in assoluto la finale anticipata. Come era stata Italia-Germania, che finale prevedete? Io Francia-Portogallo Anch'io, visto che rimango fermo alla mia previsione Francia vincente, però devo dire che la Francia ha giochicchiato bene, c'ha giocatori di talento. Nella Germania, se non avesse avuto le assenze, non ci sarebbe stata storia, secondo me. Cioè assenze nella persona di Gomez soprattutto, perché certo, con lui funziona, non ne ha un altro uguale, esatto, e allora torna tutto in gioco, dai. Domani vediamo, tra domani e dopo. Grazie Giancarlo, buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Buon lavoro, ciao. Auguri ancora per ieri. Tanto ci fermiamo per la borsa. 800 24 00 24, il vostro numero ormai lo conoscete. A tra pochissimo. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Franco Schipani, Alessandra Fiori. Buongiorno. Tintarella di luna, tintarella color latte. Alessandra Fiori e Franco Schipani ci tengono compagnia per tutto il mese di luglio con Mix 24 Estate, raccontandoci gli anni 60 e 70 attraverso la musica e la storia. Tutte le mattine alle 9.30 su Radio 24. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the Playmakers. Tutti convocati. Tutti convocati, sì, con Giorgio Luca, il nostro autore, oggi Pietro Lacorte in regia. C'è Giuseppe, poi c'è Massimo e poi c'è Pardo naturalmente. Poi torneremo sulla notizia che abbiamo aperto sul nuovo, così, la nuova proprietà cinese di tutto il calcio milanese, che fa pure rima. Giuseppe. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Bellissima la trasmissione, anche perché su toni sempre pacati e equilibrati. E nel calcio ci vuole. Il mio intervento, se vuole, cominciamo questo. A strillare, non c'è problema. Basta, no, se già la zanzara mi sfogo la sera. Va bene. Nel senso no, perché i toni pacati, segno di equilibrio, secondo me nel calcio sono piacevolissimi. Devo dire che io ho avuto un piccolo trascorso amatoriale come calciatore, tornei estivi fino a 20-21 anni, quindi calcio leggermente agonistico. Sport agonistico a livello di scherma, varie cosettine molto leggere. Questo erano curriculum. Anni che non, quindi un pochino mastico lo sport. Erano anni che non seguivo più il calcio. Noia, viziati. Invece la nazionale. Azioni teatrali, la nazionale magari proprio perché era la nazionale. Quest'anno, tranne la Germania, diciamo un po' alla scaramanzia di Valentino Rossi, non l'ho seguita per scaramanzia. Peccato, allora è colpa sua, altro che Zanzi per lui. È colpa mia, ma è colpa sua. Non sono scaramanti, ho detto no, lei, non la guardo. Lei vede Spagna-Italia. Vinciamo e per scaramanzia non vede la Germania, è una follia. Cosa ha fatto sabato sera? No, camminavo sul lungolago di Luino e ascoltavo lontanamente gli echi. Lontanamente, ecco, gli urli e gli strepiti, gli urli, giustamente. Però devo dire che a me questa nazionale è piaciuta. Parlo da sportivo, non da esperto di calcio, però vedere giocatori che giocano, che corrono, che non si insultano, che se prendono una pedata corrono, che non si lamentano, vedere un allenatore che guadagna milioni da potersene fregare per tutta la vita, che partecipa come se fosse un dilettante, non allo sbaraglio. Abbiamo i risultati di Conte, che io non sono juventino, ma guardo i risultati, spero in maniera Giuseppe obiettiva. L'atteggiamento è stato quello giusto, quello corretto. Poi io non dimentico e confermo anzi che Italia-Spagna è stata una delle più belle partite dell'Italia degli ultimi 25 anni. Assolutamente. Quindi... Però tutte le cose che dice l'ascoltatore sono vere, sono condivisibili, le abbiamo ripetute e sono quei valori immateriali che nel calcio si ritrovano. Poi abbiamo trovato il colpevole, quindi Pardo. Ma sì, no, al di là del colpevole. Giuseppe, colpevole. Pronto? Sì, dico, quello che ha colpito secondo me le persone in positivo oggettivamente è stato questo valore della squadra, questo stare insieme, questo lottare, tutte le cose che ha detto giustamente l'ascoltatore, che valgono anche più del tasso tecnico, perché poi insomma, se guardiamo dal punto di vista tecnico, questa è una buona squadra che per certe cose ci ha anche impressionato, perché non ci aspettavamo che potesse giocare un grande calcio di ripartenza come quello che ha giocato contro la Spagna e contro il Belgio, ma sicuramente insomma nella storia del calcio e anche nella scala tecnica, tecnico-estetica del calcio ci sono state squadre migliori, però è entrata nel cuore, sì. È entrata nel cuore proprio per questi valori. Massimo. Sì, buonasera a tutti. Buonasera da Firenze, via. Sì, da Firenze, sì. No, volevo intervenire a proposito del rigore sbagliato da Pellè, non quello di Zaza, che secondo me non ha nessuna colpa. Però secondo me, ecco, il mio modo di vedere è che ci sono cose nello sport, nel calcio, che non si possono fare ma restano comunque accettabili, e cose invece che non si possono fare quando si fanno non va assolutamente bene. Condizionare in modo così sleale, cercare di condizionare in modo così sleale il portiere della Germania dalla misura del carattere di Pelé, cioè un giocatore, uno sportivo senza carattere. E secondo me uno sportivo senza carattere non si merita di giocare nazionale, cioè semplicemente. Io la vedo così, lo so di che carattere, no Massimo, di carattere Pelé mi sembra che ne abbia dimostrato tantissimo in questa partita e nell'ambito di una carriera in cui è andato a giocare di qua e di là segnando gol e senza essere troppo coccolato come capita a molti giocatori. Quello è stato semplicemente un errore. Soprattutto mi sembra un po' troppo, cioè come giudizio. Io veramente non vorrei trovarmi davanti a un giudice severo come il nostro ascoltatore, anche se quello che dice non è sbagliato. Spesso il discrimine fra ciò che non è bello ma è accettabile, ciò che non è bello e invece è accettabile sta nel rigore. Cioè, se Pelé avesse segnato quel calcio di rigore avremmo detto sei stato un po' un provocatore, ma in fondo ci sarebbe piaciuto, no? Guardate che personalità, guardate che carattere, di fronte al più grande portiere del mondo fa quello per disunirlo, come fece Grobbelaar nella famosa finale di Roma-Liverpool, come in qualche modo ha fatto Pirlo quando spostò la storia dei rigori del 2012 contro l'Inghilterra segnando col cucchiaio, prendendosi il rischio, e fece una cosa meravigliosa che cambiò l'inerzia psicologica di quella serie dove eravamo dietro agli inglesi. Quindi vale tutto. Sicuramente per lei nel fare quel gesto si è preso un rischio ulteriore, e poi siccome è andata malissimo, adesso shame on him. vergogna su di lui. Anche troppa, detto secondo questo, me, però, anche troppa. Anche a dire troppa. Che non può giocare in nazionale, che a non dire ha carattere, che non ha carattere, che no, un carattere, coglione, no, che, no. Mi sembra proprio una follia. Una follia perché se si sbaglia. Ma sì, si sbaglia, ma poi se prendiamo l'europeo è uno che si è fatto un mazzo tanto, che ha i mezzi tecnici che ha, ha l'esperienza internazionale che ha, e eppure ha sorretto fisicamente l'attacco insieme a Deder per queste 5 partite che abbiamo giocato. Allora, torniamo un attimo, abbiamo un ospite, torniamo un attimo all'argomento di apertura, che è poi la notizia del giorno, cioè Berlusconi che dice il Milan l'ho venduto. È vero che sei anche un po' emozionato a Milanello? E non posso parlare più di tanto. Sensazioni positive però, Montella. Non posso parlare, c'è la conferenza. No, poi non facciamo più la conferenza. Contento solo dell'impatto a Milanello, solo questo, e poi la lasciamo libera. Sono andato un po' indietro con la mente, sì. Un po' lontano, molto lontano. La foto di Van Basten le ha fatto un po' effetto? Un pochino, sì. Anche la maglia. Anche la maglia. Sì, 1-8-9-9. È la data che tengo a memoria, AC Milan uguale vittoria, in Europa si è fatta la storia, milanisti nel cuore. Assolutamente sì, certo, certo, sì sì, è bravissimo Montella. Ci sono tanti nomi in questi fogli? Zero. Zero, zero, zero. Hai parlato un po' di mercato, che il suo calcio piace? Mercato... Nicola, se abbiamo parlato di mercato, no. Abbiamo parlato di spaghetti Nerano, cose. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Ho rinunciato a qualunque pretesa di prezzo, ho accettato quello che mi è stato proposto, che non tiene nemmeno conto del valore del brand, che pure è un valore importante, con 342 milioni di rossoneri simpatizzanti in giro per il mondo, e ho però preteso che ci sia l'impegno per i nuovi acquirenti, che sono un gruppo di importanti società cinesi anche a partecipazione statale, di versare nel Milan almeno 400 milioni di euro nei prossimi 2 anni. Tifo la squadra migliore del mondo e non la... Buongiorno a Sandro Sabatini, signor Calciomercato Premium. Ciao, ciao Sandro. Buongiorno a voi. Ciao. Come va? Come va? Fa impressione sentire queste parole, eh? Sì, poi eh? L'avete mixato bene con l'inno del Milan di Emischilla, che secondo me quando Berlusconi comprava il Milan forse non era ancora nato. Sì. Fa impressione perché sono le due momenti di storia che si congiungono nel momento dell'addio. Non so come l'avete vista voi, però... Alla stessa maniera, Sandro. Anch'io ho detto, a parte, a me ha fatto impressione. Cioè, in una mattina di inizio, afoso di inizio luglio, Silvio Berlusconi esce dall'ospedale e ufficializza: ho venduto il Milan. E ha usato apposta il passato prossimo, perché probabilmente la decisione è stata presa qualche giorno fa, certo non oggi. Una volta compravano i ristoranti e i bar con i sacchetti della spesa, le buste della spesa piene di contanti, adesso si prendono il calcio di Milano. La Cina non è poi così lontana, ragazzi. Size matters, la dimensione conta, come maliziosamente qualcuno dice, riferito ad altri aspetti della vita umana. Il mercato cinese è un mercato enorme, quindi questo poi Berinazzo ce lo spiega molto meglio di come posso spiegare io, e quindi questa è la grande forza, e se ne è parlato tantissimo in questi giorni in cui l'Inghilterra ha fatto una scelta di tipo diverso. Ma insomma, per quanto riguarda Berlusconi, io credo che sia un finale di partita anche romantico. Insomma, mi sembra che ne esca bene, al di là del fatto che insomma 30 anni e 28 trofei dovrebbero bastare, no? Dovrebbero bastare queste due cifre per raccontare che cosa è stato Berlusconi come presidente del Milan. Poi gli altri aspetti sono ovviamente discutibili, e ci sono i suoi fan e i suoi avversari. Diversi. Dal punto di vista del Milan ha fatto delle cose incredibili, e credo che in questo atto, diciamo, di buona volontà, di amore, di richiesta di investimenti ai cinesi, c'è ancora il presidente innamorato. Quindi secondo me mi sembra un finale di stile questo, sicuramente. Sì. Oltre che innamorato, devo dire anche abbastanza responsabile, giudizioso, non so quale aggettivo usare, perché comunque poi nessuno conosce esattamente i contratti, secondo me non li conoscono ancora loro in tutti i dettagli, però mettere come clausola l'obbligo di investimenti, a parte che non so come si faccia a far rispettare questa clausola, però detto questo è una grande prova di responsabilità, perché nessuna società poi, facendo un confronto anche l'Inter di Moratti con Moratti ha venduto a Twitter, poi gli investimenti promessi a Twitter sono rimasti così sulla carta nei progetti, ma non si sono concretizzati in nulla, certo. Salvo poi sentire e vedere Moratti che spesso e volentieri si lamentava appunto dell'operato di Twitter. In questo caso, se c'è effettivamente qualcosa di scritto, questa clausola scritta, secondo me è molto responsabile da parte di Berlusconi. Dicevo prima, è l'ultimo regalo, Sandro, l'ultimo regalo che Berlusconi fa ai suoi tifosi, ed è qualcosa di strano, come prima Pardo ha usato un'immagine perfetta, cioè come se te uno ti vende la casa e ti dice ok, la casa è tua, però ti impegni a spendere 50.000 euro per rifare tutti i serramenti, è un po' così. Perché mi dà fastidio vederla... perché mi dà fastidio vederla, ricordarla male. Piero, aspetta un istante, sì, che ho il traffico, sono in ritardo, torniamo subito, ragazzi. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presento. Tutti convocati. Pierluigi Pardo e Sandro Sabatini, voglio girarvi una considerazione. Se i nuovi investitori cinesi da una parte e dall'altra, da una parte ormai insediati, dall'altra prossimi ad esserlo, manterranno i loro impegni, i loro intenti, le loro dichiarazioni di principio, sarà la capitale del mercato Milano la prossima estate? Chi risponde? Ordine Sabatini. Alfabetico. Allora Pardo. Ma sì, insomma, appunto, il discorso che facevamo prima, chiaramente c'è una crescita della dimensione del mercato di queste due società, perché insomma la Cina è un mercato enorme, è un mercato gigantesco, quindi io credo che dobbiamo abituarci a queste soluzioni. Poi può dispiacere dal punto di vista del romanticismo e della tradizione, ma credo che i tifosi al primo acquisto azzeccato saranno felici. Sì, adesso qualcuno ha un po' paura, ho un WhatsApp che dice tra tre anni malediremo questo giorno che porta il Milan verso la fine, ma anche perché non si conoscono le facce, i nomi e i cognomi degli investitori cinesi, ma verrà fatta chiarezza entro breve. E ripeto, Sandro, se le dichiarazioni di intenti verranno rispettate, attenti al mercato estivo. Ma guarda, a proposito di quello che ti scrivono, teniamo presente una cosa, che poi adesso l'estate vincono tutti. Poi arriva verso la primavera, cioè passano 9 mesi, la gestazione di un campionato di una stagione propone un solo vincitore. Se pensate che adesso Higuain, il simbolo del Napoli, dice a De Laurentiis attraverso il fratello tu non hai voglia di vincere, capite che si sono persi tutti i parametri, e quindi anche se vogliamo dello sport, che c'è uno che vince e una decina che arrivano secondi, terzi, quarti, eccetera. E così adesso i tifosi del Milan che esultano, secondo me anche abbastanza a proposito, devo dire molto sinceramente, però che esultano, ha detto bene quello che ha scritto, fra 3 anni magari penseranno che si stava meglio quando si stava peggio. Ma perché sei pessimista su questo, Sandro? Beh, io sono pessimista perché vedo che comunque, ora lo dico molto sinceramente, hai voglia a comprare grandi giocatori sul mercato per colmare il gap che c'è tra le due milanesi e la Juventus? Secondo me 2, 3, 4, 5 acquisti non bastano. No, ci vogliono degli anni, ci vogliono degli anni, ma come accade in Formula 1, no? Per limare 40 secondi, 50 secondi che hai di distacco l'anno prima, un'estate non basta, e la storia di questo campionato di Formula 1 lo sta dimostrando, divago. Però è chiaro che squadre come Milan e Inter, per arrivare a livello della Juventus, non hanno soltanto bisogno di denari cinesi, hanno bisogno di una programmazione quantomeno a medio termine. Questo è il senso. Quella sicuramente è mancata e adesso verrà impostata. È chiaro che verrà comunque impostata con tramiti italiani, perché nel Milan comunque di fatto resta Galliani, questo mi pare evidente. Ieri sera era con il rappresentante dei cinesi a cena e in Montella c'era Galliani, e quindi con dei tramiti italiani a cui viene affidato appunto questa transizione più o meno lunga per passare da un pianeta all'altro, da un universo all'altro, dalla Cina all'Italia, praticamente. E quanto ci vorrà poi perché se un giorno, io credo che insomma, a vedere anche l'evoluzione di come è stata le due famiglie di riferimento di Milan e Inter, Berlusconi vince dopo un anno o 2 anni, un anno e mezzo. spendendo un sacco di soldi. Moratti, prima di vincere qualcosa di importante, tutti sanno quanti anni sono passati, spendendo ancora più soldi. Cioè, vincere è difficile, scusate la banalità, e poi ci riesce uno solo. Ci riesce uno solo, l'importante però è costruire qualcosa di competitivo con il tempo che serve. Grazie Sandro, a presto, buon lavoro. Ciao, Sandro, voi, ciao. Sabatini. Ciao. È così, no, Pardo? Cioè, non è che adesso quelli che pensano l'anno prossimo Milan e Inter sono competitive con la Juventus si sbagliano. Milan e Inter devono essere competitive rispetto ai parametri di questa stagione, secondo me. Penso proprio sì, anche rispetto ai parametri del fair play finanziario, tra l'altro, che da un certo punto di vista complica le cose, perché oggi, anche ammesso che arrivi un signore con voglia di investire 300 milioni sul mercato, non può farlo del tutto. Ci sono, nel caso dell'Inter lo sappiamo, per esempio, dei parametri che devono essere rispettati in maniera molto chiara e molto precisa. Però io credo che i tifosi, cioè io li capisco, capisco che ci possa essere curiosità e anche un po' di scetticismo, perché negli ultimi anni la gestione del Milan, che ripeto, sai, quando poi tu, quando una storia ti inizia come questa, esci dalla cronaca, quindi esci dal malumore dei tifosi, esci anche dalla critica che è giusta, che è doverosa, perché abbiamo visto il Milan perdere in casa con Bologna, fare dei campionati abbastanza grigi, e quindi è ovvio che nel momento nel quale giudichi la cronaca, il presente negli ultimi anni è stato molto negativo. Quando poi risposti tutto sul fronte che invece è di medio lungo periodo, racconta 30 anni di storia, è stata una gestione straordinaria. È stata una gestione, è stato un pezzo di storia del calcio italiano. Piaccia o non piaccia al Milan, piaccia o non piaccia a Silvio Berlusconi. Sentiamo domani, Pier. Ti abbraccio. Ciao Luigi Pardo. Ci fermiamo per sentire il GR, poi arriva il maestro Bartoletti con le sue pagelle. E l'arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari, si va ai supplementari. La partita si allunga, in molti l'avevano previsto. Tutti con i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Tutti convocati. Marino Bartoletti, se non mi accusi di eccessiva romanticheria, avrei deciso ogni volta di introdurti con una sonorità. En flat vai nadau. Sì, oggi tocca a questa, l'inno del Galles, perché emoziona entrambi e qui possiamo anche fare outing. Guarda, è come se noi romagnoli cantassimo Romagna mia. È bello sentire un inno, non si può dire in dialetto, ma nella lingua nazionale, con quale orgoglio lo cantano, porca miseria. Poi dai, non è un segreto, noi ci scambiamo i messaggini. Sì. E adesso ci manca uno delle due stelle, Ramsey, ma il Portogallo è la squadra più fortunata di questo europeo, non possiamo farci nulla. Gastone Portogone. Gastone Portogone, bravo Marino Bartoletti. Senti, è fin troppo scontato, ma vorrei chiudere questo discorso con te. La nazionale, oggi fanno più rumore i criticoni, fanno più rumore, dicevo prima, i social network che crocifiggono Zazza e Pelé, ma alla fine nel sentimento popolare comune, al di là di quelli che dicono, beh, leggi il risultato, usciti ai quarti di finale, non è che siamo campioni d'Europa, al di là degli schiavi del risultato, credo che, almeno dal mio punto di vista, non voglio sentire il tuo, quest'Italia abbia messo d'accordo quasi tutti, sentiamo Conte. Mi dispiace tanto per i ragazzi, per me è stato è veramente un grande onore allenarli e mi hanno dato veramente tutto quello che avevano. Che voto dai alla spedizione italiana, Marino? Eh sì, ho do voto alto, almeno 7,5 e non gli do 8 per Conte. Cioè anch'io naturalmente sono fra coloro che lo hanno apprezzato tantissimo il suo lavoro, come anch'io, come te, certamente come Pierluigi, eravate d'accordissimo quando lo scelsero come allenatore della nazionale. Però questo tintinnio dei nemici ogni tanto mi indispettisce un pochino, e l'ho fatto anche nei momenti di maggior gloria di questo europeo che tutti dobbiamo apprezzare. La prima valutazione che si può fare è: va bene, se è così felice di questa squadra, se è così soddisfatto, come è giusto che sia soddisfatto di questo lavoro, se è così orgoglioso della nave che ha condotto in porto con tanta gloria, perché se ne va? Perché ha fame di club, ha fame di campo e ha fame probabilmente di quattrini. Allora, coerenza, chi era costui? Quindi va bene, per carità, grande apprezzamento per il lavoro di Conte, è stato uno sparigliamento il suo che era necessario in un momento delicatissimo, molto triste della storia della nostra nazionale. Ha fatto meravigliosamente bene il suo lavoro, perché sicuramente il rapporto fra qualità che gli era concessa e risultato è stato straordinariamente a suo favore. Ma perché lamentarsi sempre? Sì. Perché vincere il premio Mazzarri anche all'indomani di una... di una vittoria come questa, dai. No, parlo di vittoria, tu, perché no, è una vittoria lo so, morale. Tu sai che, o non so se lo sai, io molte volte ho detto che a me nel corso di questi due anni la cosa che ha dato più fastidio è il fatto che Conte molte volte abbia dato l'impressione di essere lì per farti un favore, no? Sto qui però sto qui, non mi fate fare gli stage, sto qui però in fondo non è il mio mestiere. Questo mi ha dato estremamente fastidio, ovviamente, scusa quest'ultima parentesi, europea che ha vissuto... con pienezza del suo ruolo ed è un grande allenatore. Devo dirti una cosa tenerissima, guarda, lui ha portato, ripeto, in porto una nave che forse non aveva tante capacità per navigare al mare aperto, quindi ha fatto delle cose straordinarie con dei ragazzi straordinari, alcuni dei quali naturalmente saranno andati alle Maldive, qualcuno sarà andato in Ibiza. Sì. Ieri al bagno Claudia di Cesenatico ho visto Giaccherini con la sua famiglia, ecco. Questa, secondo me, è l'immagine della nazionale, sì, la cosa più bella di questa nazionale. Molto italiana, molto italiana. L'umiltà dei ragazzi che l'hanno portata così in alto. Allora, altro super tema, rigore, rigoristi maledetti. Tu sei stato testimone oculare di molte disavventure italiane e di qualche avventura a lieto fine negli ultimi anni, negli ultimi lustri. Zazza. Ho tirato sempre così e... Ero convinto di poter far gol, avevo spiazzato però in partita alta forse, e cercherò di riprendermi, soprattutto di voglio che gli italiani sappiano quello che noi abbiamo fatto a Montpellier in Francia, perché abbiamo dato davvero tutto e non è giusto, ma non per noi ma soprattutto per l'Italia, che un episodio cancelli quello che noi abbiamo dato davvero col cuore. So che non farai mai in vita tua come Ponzio Pilato, allora colpevoli o innocenti? Guarda, non si può giudicare il percorso di questa nazionale, come dire, da alcune cose che sono accadute durante quei, quanti sono durati? 5 minuti calci di rigore, non so neanche io, è stata un'eternità comunque. Non si può giudicare Pelé, non si può giudicare Zaza, anche se... Io ritengo leggermente più, fra virgolette, innocente Zaza rispetto a Pelé, che poteva sinceramente risparmiarsi quel gesto che ci ha riallineati con una, come la vogliamo chiamare, italiota furbizia della quale sinceramente facciamo a meno. Io guardo naturalmente il Zaza Dance sui social, guardo le cattiverie che vengono scritte, istintivamente non sarei portato all'indulgenza nei confronti di Pelé, però... se hanno fatto qualcosa di importante l'hanno fatto tutti assieme, quindi in questo momento mi sento di essere papà e nonno, dai, nei confronti di questi giovanotti che in fondo ci hanno dato tante gioie e tante soddisfazioni. Cambiamo argomento. Voto a Zaza e Pelé. 7, perché comunque hanno fatto parte di un gruppo che ci ha dato, ripeto, grandi emozioni. Quindi mezzo punto in meno rispetto al gruppo nel suo complesso. Beh sì, perché comunque... E perché comunque l'errore è errore. Hanno avuto il coraggio di tirare quel rigore e potevano far leggermente meglio una volta assimilato questo passaggio. Allora ti riporto al ciclismo, ti riporto al ciclismo, via del Tour de France, grandi firme ma anche grandi, come al solito, grandi tensioni e cadute importanti. Contadoro. Morale bene, penso che giorno per giorno meglio, e fisico male. È un inizio incredibile, difficile, perché al fine tanto, tanto lavoro, prima arrivare qua. Però bueno, questo è il ciclismo e ancora non è finito e vediamo. Questo è il ciclismo, ma soprattutto questo è il Tour. Ogni tappa diventa una battaglia, ogni tappa si corre in una, mi insegni tu, in una tensione irreale, perché è la, ogni giorno è la corsa che può cambiarti la vita. Sì, anche se questa prima settimana in teoria dovrebbe essere una settimana di avvicinamento, che però non ci ha negato le sorprese, perché Sagan in maglia gialla e Cavendish che torna a essere il principe dei velocisti, effettivamente non ce lo aspettavamo. Contador non era comunque il favorito per questo giro, eh. Non credo che Contador possa ancora vincere un grande giro, i grandi favoriti sono Froome e Quintana, lasciami aggiungere con amore almeno uno dei nostri italiani, non so quale, ma almeno uno dei nostri italiani. Dammi un voto al loro approccio, sia di Aru che di Nibali. Sono due approcci diversi, diciamo che per adesso mi limito al 6,5 nei confronti di entrambi. Nibali secondo me ha una scintillina dentro che potrebbe riservarci qualche sorpresa. Nonostante la dichiarazione della vigilia. La grande vittoria di tappa, per la verità. Sì, sì. Aru si sta muovendo sotto traccia, non sembra in formissima, ma probabilmente a lunga potrebbe fare qualcosina di più. Lasciami anche dire che insomma, è bellissimo, l'abbiamo detto tante volte, il fatto che il vertice del ciclismo italiano sia rappresentato da un sardo e da un siciliano. Insomma, Garibaldi non ha operato in vano. E lasciami aggiungere anche un'altra cosa. Oggi è un giorno di compleanni, ci hanno dimenticato di fare gli auguri dei 50 anni per Gianfranco Zola. Mm-hmm. Ma oggi compie gli anni, 95 anni, un ragazzino delle mie parti, di Faenza, come Davide Cassani, che si chiama Vito Ortelli. È la più vecchia maglia rosa vivente, è stato campione d'Italia, ha fatto cose importanti, è quasi coetaneo di Coppi, beh, insomma è ancora lì che si guarda il Tour de France in televisione. Grandissimo, ci uniamo tutti quanti, tutta Radio 24, applaudendo in piedi, standing ovation per questo compleanno. Leggevo oggi che Sky non manderà nemmeno un inviato a Rio, costa troppo, ormai i diritti ce li ha la Rai. Intanto però la stessa Sky trasmette il preolimpico di Torino di basket, sport che nel cuore di entrambi sta. Ieri sera con la Tunisia, primo tempo da coprirsi gli occhi, secondo tempo in cui abbiamo detto vabbè, facciamo così, questi non segnano più. Gallinari. Bisogna rompere il ghiaccio in questo tipo di competizioni, può capitare all'inizio di essere un po' contratti, però stati bravi poi a scioglierci, una volta insomma sciolti abbiamo giocato molto bene, abbiamo insomma, fatto meglio le cose che nel primo tempo non ci sono venute. Bisogna prendere partita per partita, ogni partita è una storia a sé, oggi è stata una buonissima partita, però domani dobbiamo resettare e prepararci a domani. Al 6 non ci arriva l'Italia di ieri, no. Speriamo che arrivi all'8 quella dell'ultimo giorno. Io fiducia Carlo, sai bene, perché comunque è una matrice comune che il nostro sport primogenito è la pallacanestro. Io lo seguo con l'amore che sai e so un padre in questo mondo, questo padre si chiama Aldo Giordani, a cui dobbiamo veramente ancora tanto e tutto, preso il racconto che ci fece della medaglia d'argento del 1980 quando sconfiggemmo l'Unione Sovietica e quando sembrava che arrivassimo secondi o che arrivassimo quinti, il nostro ranking era più o meno fra i primi 5-6 a livello olimpico, in cui sembrava che non avremmo mai saltato un'Olimpiade. Da allora ci picchi, ne abbiamo saltate tante, perché delle ultime 7 vada naso, ne abbiamo fatte soltanto 2, per fortuna anche quella del 2004 con la benedizione di un argento. Posto tenuto dai ragazzi di Charlie Recalcati, e se vogliamo dirla tutta, quella nazionale, seppur nazionale di Pozzecco, di Bulleri, di quelli che ricordiamo, sembrerebbe meno forte rispetto a quella di adesso, sinceramente. Allora quella di adesso deve essere all'altezza delle speranze che le abbiamo affidato a piene mani. Intanto con colpo di genio abbiamo il miglior allenatore possibile in panchina. Passa il testimone azzurro da un grande allenatore come Conte ad un immenso allenatore come Ettore Messina. Io vorrei vedere tutte le nazionali di ogni sport allenati dai più grandi allenatori. Non so, è una mia fissa, una mia perversione, Marino, chiamala come vuoi. No, no, è una riflessione assolutamente sacrosanta. Devo dire che molto spesso, per la verità, la pallacanestro è stata dal miglior allenatore che c'era, allenata dal miglior allenatore che c'era in circolazione. Adesso è dal migliorissimo allenatore che c'è in circolazione, perché nessun italiano, Scariolo forse su un piano diverso, può vantare un pedigree come quello del mio amico e concittadino Ettore. Grazie Marino. È sempre un piacere. Non ho dato un voto, ma che io devo dare? E beh, alla partita di ieri sera la sufficienza non ce l'abbiamo. No, diamo 9 alla speranza, perché a questa generazione senza l'Italia, guarda, te lo dico romanticamente, non può essere un'Olimpiade. Grazie Marino. Un abbraccio. Un abbraccio Marino Bartoletti. Mauro, buongiorno. Mauro, buongiorno. Mauro, buongiorno. Domani. Umberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Ma guardi, vorrei fare una riflessione sulla nazionale. La prima su Conte, sicuramente straordinario per quanto ha dimostrato in tutte le partite e la carica che ha dato ad una squadra. Ma mi permetto di dire che probabilmente far entrare Zaza all'ultimo secondo e mantenere un giocatore totalmente freddo, per quanto rigorista, prima dei calci di rigore, sia stato un piccolo errore tecnico, ma giusto per voler trovare il pelo su una gestione meravigliosa della squadra. Questo è qualcosa che abbiamo pensato in molti, anch'io. Non abbiamo la riprova, abbiamo chiare anche le dinamiche psicologiche, ma soprattutto mettere un giocatore con così poca esperienza internazionale senza fargli minimamente assaggiare quei piccoli brandelli di partita e con in testa per così lungo tempo, perché per lui sarà stato un tempo infinito, l'idea di dover andare sul dischetto, e può essere che a Zaza siano un po' bruciati i nervi, non sarebbe sbagliato crederlo. Ci porteremo dietro questa interrogativa e questo dubbio per molto tempo, ce lo ricorderemo, insomma, così come ci ricorderemo di questo europeo. Io saluto, tornando al basket invece, saluto e ringrazio Massimo Oriani, prima penna della Gazzetta dello Sport. Buongiorno Massimo. Buongiorno a voi. Allora, io e Marino Bartoletti abbiamo già cominciato ad inquadrare il punto. Abbiamo cominciato questo preolimpico dalla Tunisia, tu oggi ne hai scritto onestamente pessimo primo tempo, poi è stato spiegato, ho sentito anche nell'intervallo da Hackett, contratti, nervosi, tesi, l'esordio in casa, eccetera, eccetera, però se non segna quel canestro da 3 Berinelli all'ultimo istante non è neanche 32-27, punteggio peraltro da mini basket, o come avrebbe detto Aldo Giordani, che abbiamo prima citato, muliebre. Esatto, l'attacco è stato così, diciamo, non molto fluido ieri. No, non tanto. Ma io mi auguro e voglio sperare che sia stato quello il problema. Però diciamo che il secondo, terzo, quarto maschera forse un po' troppo i problemi che si sono visti. Il tempo per Messina è stato veramente poco. Il talento c'è, la squadra abbastanza. Ma io sono dell'idea che... da un certo punto di vista forse ci potrebbe addirittura far bene perdere oggi, per assurdo, perché ci darebbe forse ancora più quel senso di urgenza, come dicono negli States, sì, di dover fare per forza il risultato al momento giusto, e ci metterebbe di fronte al fatto che non siamo così forti forse come... i nomi possono far credere. Caspita, già camminiamo sulle mine in questo preolimpico, anche se giochiamo in casa, è un torneo, un mini torneo in cui si cammina sulle mine. Sì, chiudersi dentro all'angolo perdendo con la Croazia ci farebbe venire davvero i brividi, no? Perché a quel punto i grandi risultati della nazionale storicamente sono quasi sempre nati da sconfitte all'interno dei vari tornei, se andiamo a rivedere il passato. Ricordate quel tracollo con la Francia, gli europei, ma chiaro, farebbe molto più comodo vincere stasera spacciandoli magari anche via e poi giocarsi una semifinale con Iran o Messico, che sarebbe un'altra passeggiata, e poi affrontare probabilmente la Grecia o ancora la Croazia in finale. Il problema è appunto che secondo me questa squadra deve aver bisogno di tempo per crescere, e se dovessimo riuscire a passare il preolimpico, poi con un mese o quasi davanti, allora all'Olimpiade potremmo dire la nostra. Come hai visto Ettore Messina dopo la partita? Ma sereno, devo dire, sereno, perché insomma non è uno che si fa spaventare per un primo tempo giocato così contro la Tunisia. Questo ne ha viste, ne ha vissute tante, sa bene cosa ha in mano e cosa può dare questa squadra. Io credo che sia conscio del fatto che i pericoli ci sono, ma sono anche superabili, ecco. Sì. Massimo, ieri è stato il giorno in cui il mondo del basket è stato scosso non solo dall'inizio dei preolimpici, ma dalla notizia che conosci bene, e cioè da Kevin Durant, che ha firmato per Golden State, vice campione NBA, detentrice del record della regular season e tutto quello che vuoi. Beh, adesso come fai a fermare questi? Ma non è andato ai Boston Celtics, scusami. Io sono... No, scherzo, ovviamente. Da tifoso bostoniano faccio finta di credere che sia nato Boston, che non sia successo quello che... Ma mi sembra che non abbia nemmeno voluto parlare con Boston, o sbaglio? No. Altro che, si è scomodato persino un certo Tom Brady alla riunione, all'incontro con Durant, per cercare di convincere. Sapete che questi prendono appuntamento. Allora, le squadre che mi vogliono sono queste. Prendiamo appuntamento con questo e quest'altro. Forse mi confondo con i Knicks, che sono un'altra mia passione. Con i Knicks non ha parlato. Beh, dai, adesso non scherziamo. Stiamo parlando di squadre vere. E qui mi linciano i tifosi di Knicks adesso. Sì, no. Mi sembra una scelta di retrovia. Ti sembra una scelta di retrovia? Molto di retrovia, sì. Perché? Perché se tu sei un giocatore numero uno sul mercato, uno dei due, tre, ma allarghiamoci, quattro giocatori più forti al mondo, vai a fare il secondo violino a Steph Curry. Sali, cioè, sul carro, non lasci la traccia, cioè non vinci un titolo creando qualcosa, costruendotelo tu. Mi sembra veramente una scelta perdente. Allora, stai facendo lo stesso discorso che forse facesti quel giorno in cui LeBron James disse sì ai Miami Heat e Barkley disse: ma a dire la verità, io sono la superstar, erano gli altri che devono venire a giocare con me, non il contrario. Ma qui tu vai con Steph Curry. LeBron è andato in una squadra dove c'era un Wade ancora buono, ma non il Wade del titolo contro i Mavs, sì, in cui vinse l'MVP. E poi LeBron si lasciò alle spalle una squadra dove aveva Varejao, certo, e una manica di sconosciuti. Questi sono arrivati, Thunder sono arrivati a 3 minuti da eliminare Golden State, erano 3-1 avanti. Con la stessa squadra avrebbero potuto serenamente vincere il titolo l'anno prossimo, essere una delle squadre che poteva vincere il titolo. Sì, sì. La differenza con LeBron fondamentale è quella. Sì, certo. E lui non aveva speranza se rimaneva lì. Certo. Grazie Massimo, è sempre un piacere. A voi, ti abbraccio, grazie a Massimo Reali. Allora, chiudiamo questa puntata. Giorgio De Luca, Pietro La Corte, autore e regista. Ci sentiamo domani alle 2 e continuiamo tutte le nostre discussioni sui massimi sistemi sportivi. Vi piace così? Ciao! Che spettacolo! Da brividi!